La cicogna nera. 9:20, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Riniziamo con un po' di fischietti in sottofondo, ma ce l'abbiamo fatta. Riniziamo le sonorità popolari contemporanee della cicogna nera e dunque fascia di ascolto serale di Radio Onda Rossa dedicata alle musiche del mondo. Prima di noi c'è di solito CPT Balkan Music, che naturalmente guarda Oriente, ma questa sera le sonorità oltre Adriatico di Margherita non ci sono state. Dunque apriamo direttamente noi la serata qui a Radio Onda Rossa. Lo facciamo con un paese che abbiamo tralasciato un po' nelle ultime settimane, diciamo così, che sta abbastanza a cuore della cicogna, ossia le sonorità del Brasile. Prima di andare a vedere un nuovo progetto, un progetto che corre parallelamente, ricordiamo i recapiti che sono lo 06 49 17 50, il numero della diretta, potete chiamarci per qualsiasi cosa, naturalmente anche per ragioni extra trasmissive, se possiamo dire così, oppure potete scriverci alla cicognanera@ondarossa.info. Infine, la trasmissione è anche in streaming, dunque se vi piace la nostra musica potete riascoltarla quando meglio volete sul sito della radio, che non mi ricordo esattamente, no, il sito della radio mi ricordo, è www.ondarossa.info. Lo slash che seguirà la scaletta, la trasmissione dove trovate lo streaming dovrebbe essere ondarossa.info/trx/lacicognanera. Dunque partiamo dal Brasile, partiamo da un personaggio che arriva dal nord-est, sicuramente una delle musiche meno conosciute all'estero, non nei brasiliani, alle orecchie insomma dei nordamericani e di noi europei, tante musiche che sono il frevo, il forró, il maracatu, di cui parleremo a breve. Questo personaggio si chiama Silvério Pessoa e ha pubblicato un paio di mesi fa, forse comunque recentemente, in questo 2011, due progetti paralleli. Silvério Pessoa fa un po' un trattamento contemporaneo al, potremmo dire, il canzoniere delle musiche popolari di questa parte del Brasile, dunque i generi che vi ho già citato prima, e poi ci mette su un po' la sua attitudine, che è quella di un pizzico di rocker, di un po' di pop, di un po' di punk e spesso e volentieri anche degli interventi elettronici che sono assorbite perfettamente da questi ritmi nordestini. Allora, il primo progetto di Silvério Pessoa si chiama No Grau, che dovrebbe significare il grado, e noi andiamo ad ascoltarlo con Esta Cidade. Esta cidade me carrega em mangue cinza e praia acesa, em manga aberta sobre a mesa, em moça aberta sobre a cama. Esta cidade que se expande em praça vazia e avenidas, em superfícies cromo e vidro, em rio e sombra e margens líquidas. Esta cidade se dilata, vento oleoso derretido, serpente crônica, farrapos, sol em paralelepípedos. Esta cidade que se amplia, varal de roupa branca suja, em vila parda no horizonte, em asa branca, rua imunda. Esta cidade que se alaga, de sol se espicha, se espreguiça, se vira diva, brinca e grita, quando chove fica muda. Esta cidade se limita, esta cidade se limita, esta cidade se limita, esta cidade se limita. Vento oleoso derretido, serpente crônica, farrapos, sol em paralelepípedos. Esta cidade que se amplia, varal de roupa branca suja, em vila parda no horizonte, em asa branca, rua imunda. Esta cidade que se alaga, de sol se espicha, se espreguiça, se vira diva, brinca e grita, quando chove fica muda. Esta cidade se limita, esta cidade se limita, esta cidade se limita, esta cidade se limita. Em comparaison avec la France, Paris, Lyon, des villes grandes, plus grandes que Récif, qui sont différentes au niveau de leur architecture, en raison de Paris, ses bâtiments architecturaux magnifiques, ses monuments rénovés, en comparaison à Récif, ou dans le quartier de Récif Antigo, où malheureusement... Aussi malheureusement en France sont les transports. Questa cidade, lui è Silverio Pessoa con questo nuovo progetto da poco uscito nel 2011 che, come vi abbiamo detto, va incontro tra le sonorità popolari nordestine con un po' di attitudine elettronica in questa canzone, non molto in realtà, e un po' di rock. L'altro progetto che corre parallelamente, che è nato almeno nelle sue sensazioni diversi anni fa, si chiama Collectio, oppure Collettivo in lingua occitana e Collettivo naturalmente in lingua italiana. Collettivo in lingua occitana perché è proprio un progetto di mezcla tra le sonorità del nord-est e la parte occitana del sud della Francia. Dunque, un'Occitania nordestina o un nord-est occitano, questo potrebbe essere un po' la sintesi della musica di questo Collectio, relazioni reali e immaginarie, leggiamo scritto sul sito suo, dedicato insomma alla presentazione di questo album. E questo è molto importante, insomma, il Collettivo dà un po' questo progetto una sensazione di vittoria, come una conquista collettiva, e questo perché ci sono due luoghi in comune, se vogliamo, tra le musiche del nord-est e la lingua occitana, che è praticamente il fatto che tutti e molti, ci sono molti artisti, molti suonano, molti fanno delle date, soprattutto paesane, però sia nel sud della Francia, sia in questa parte del Brasile, queste musiche sono un po' fuori dal circuito mainstream, come dire, sono un po' fuori dal livello alto, ecco, sono assenti dai media ufficiali, a differenza di altra musica del Brasile, e così questo progetto vuole anche essere uno scambio, una produzione congiunta per permettere una valutazione migliore della propria cultura, per avere il desiderio di avere un maggiore valore culturale. Progetto che anche ha in comune con la lingua occitana una possibile somiglianza, che è quella del trovatore. Silverio Pessoa può essere accomunato a un trovador, a un trovatore occitano, e sono molti in questa parte del Brasile i cantautori, i cantanti che amano l'improvvisazione così come i trovatori occitani, e tutti quanti, anche se hanno differenti nomignoli all'interno delle diverse regioni del Brasile, tutti quanti comunque sono chiamati trovatori, proprio così come il trovador medievale occitano. Naturalmente non ci possono essere relazioni dirette tra questi due, perché quando il Portogallo iniziava la sua fase di colonizzazione del Sud America, il trovador occitano già non esisteva più, però le poesie e la lingua occitana hanno avuto un'influenza sicuramente molto presente nella penisola iberica e ancora di più in Portogallo, che poi partì per questa zona del mondo. Dunque, da Collectio apriamo con la canzone il progetto di apertura, e insieme ad un gruppo molto famoso che arriva da Marsiglia, si chiama Mussuti e Lei Jovons. Dunque, lui è Silverio Pessoa con Marage. Città fa riboto de clarta. Lei suoi devina l'Africa, chi rupanta e si fabbrica, canso de venere sao per il mondo e malgaia. Mediterraneo, levo barco, lavo i sonhos escondidos, sovenção de zona antiga encruzilhada para o mar. Uma riviera, laranjeiras, azeitona na pimenta da Guiana, berinjela, limoeiro, pra quando a criança. Lá da Sardenha, no Egito. meio Gibraltar. Uma gaivota sai do corpo de massa e se transforma no olhar de um menino que espera o barco do tempo passar. Espera o barco do tempo passar. Mete terra, vai do lado a lado na Sardenha, no Egito, rompe as águas de Veneza, lendas, reinas, aviçais. Vilas, oliveiras, o milagre, vendo os peixes no sorriso da criança, esperando o novo mundo pra quando a alegria de ferie e via della miseria, le enfants de la città, fariboto de carta. Silverio Pessoa e Monsuti e Lei Jovin con questo Maratje, canzone di apertura di Collectio, dunque un brano veramente da scoprire, un avvicinamento di 9.000 km, scusate, di distanza che non sembrava possibile e che invece Silverio Pessoa, questo cantastorie, ha tentato e l'ha fatto, anche se la sensazione, l'idea di questo progetto nasce molto lontano, nasce addirittura nel 1985 quando una delegazione, gli organizzatori del carnevale della città universitaria di Tolosa, una città universitaria francese, vanno nel nord-est, forse a Bahia, non so precisamente dove, per avere delle lezioni, per avere delle dritte, insomma, sul carnevale. E così nacque lì l'idea che ci potevano essere qualche affinità sulle sonorità occitane e quella del nord-est brasiliano. Ricordiamo il frevo, la musica che si balla durante il carnevale, il forró e la musica che ascoltiamo di più in Silverio Pessoa, il nord-est, il ballo più diffuso in questa regione del Brasile ed è anche quello che si distanzia maggiormente dal samba e dalla bossa nova che siamo abituati ad ascoltare. Naturalmente anche per l'organico, il forró ha come organico, come avete sentito, la sanfona che è la fisarmonica, ha pure il triangolo, la gogo, questi sono gli tre come dire, strumenti principali, a differenza magari del samba, della bossa nova, che ha nelle corde, nel cavaquinho e nel violao 16 corde, soprattutto gli strumenti portanti di questa musica. Ancora c'è il maracatu, che forse è la musica come dire più genuinamente autoctona del Brasile, perché è molto intrisa di indigenismo, se si può dire questo termine, e comunque non ha nulla da invitare al carnevale carioca, questi blocos de maracatu, queste processioni che vanno in giro acchittate all'inverosimile e che fanno questa musica che si assomiglia quasi a una trance per la sua portata ritmica consecutiva. Comunque, Silverio Pessoa e il suo cantastorie, se volete, lo potete trovare anche in un film che si chiama Moro no Brasil e che è stato prodotto nel 2003 da Mika Kaurismäki, che è il fratello del più noto, magari a noi e a voi, Aki Kaurismäki, e che lui vive in Brasile da diversi anni, ha un locale a Rio de Janeiro dove invita dei musicisti a suonare e ha fatto due documentari, di cui questo è l'esordio, e si chiama Morno Brasil, che significa appunto io vivo in Brasile, che racconta un po' il percorso storiografico, se è possibile raccontarlo in un documentario, di questa musica, partendo proprio dal nord-est, dal Pernambuco, dalle comunità indigene, per poi giungere giù a Rio de Janeiro. In questo l'altro documentario invece si chiama Brasiliriño, è più recente ed è dedicato invece a un'altra musica genuinamente urbana, questa volta però molto carioca, perché è nata proprio a Rio de Janeiro verso il 1870, ossia parliamo dello choro, una musica molto che si avvicina molto al jazz nordamericano. Comunque abbiamo finito il Brasile per questa serata, ci colleghiamo naturalmente in Occitania e andiamo ad ascoltare uno dei gruppi occitani, anzi che abitano in Occitania, precisamente nell'odierna Marsiglia, ma loro non sono proprio di estrazione occitana, bensì hanno molte più come dire, diramazioni etniche diverse, perché ad esempio la cantante che si chiama Sista Kay ha la madre che è una ebrea polacca, invece il padre è un combattente per la libertà che arriva dalla zona berbera del Maghreb. Poi abbiamo nella formazione un musicista corso, abbiamo altri musicisti che arrivano dalle Alpi francesi, insomma il multiculturalismo è in azione senza dubbio nei Vacha Clan, che hanno da poco anche loro, forse un mesetto fa, pubblicato questo Radio Babel, il nome sta a significare tutto il loro intento, tutta la loro direzione musicale e soprattutto anche politica, che ritroviamo nella canzone di chiusura che ci andiamo ad ascoltare qui alla Cicogna. L'ultima canzone si chiama Il Quinto Reggimento ed è una canzone, l'unica cover tra virgolette diciamo, di questo album del muro di questa Radio Babele, dedicata appunto all'abbattimento delle barriere del muro, ed è dedicata a questa canzone che fa parte della guerra civile spagnola. Sicuramente il Quinto Reggimento era, come dire, un reggimento molto famoso, che prende il via soprattutto dalle milizie antifasciste comandate, leggiamo da Wikipedia, da tal Juan Modesto. Diverse versioni, loro ne hanno rifatta una tra le tante, una molto bella, l'andiamo ad ascoltare. Sono i Bacha Clan. Soy del Quinto Regimiento. Ya 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño junto al Quinto Regimiento. Tenga jaleo, jaleo, fuego de ametralladoras, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el Quinto Regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Tenga jaleo, jaleo, fuego ya ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Soy del Quinto Regimiento. Voy al Quinto Regimiento. Quinto Regimiento, l'ultimo album dei Bacha Clan. Siamo qui alla Cicogna Nera quando sono le 9:40 minuti primi. Radio Babele, naturalmente, in questo nome sta tutto il significato, la direzione di questo album, che è quello del multiculturalismo. Sicuramente è un argomento molto caldo in questi ultimi tempi, anche il Regno Unito, dove lo stesso Cameron ha dichiarato che, insomma, il multiculturalismo è fallito. Comunque loro vogliono abbattere il muro, we are one, dicono nella canzone di apertura, e si riferiscono proprio al muro, che sia quello palestinese e israeliano, soprattutto nel videoclip che hanno fatto, è quello che rappresenta la divisione tra l'America del Nord e il Messico, dove ogni giorno tentano di passare il confine migliaia di messicani e dove ogni giorno lo stesso si recano per lavoro altrettanti. La direzione musicale è anche, naturalmente, come avete sentito, quella del multiculturalismo, questa dei Wafaa Clan, dove ci sono sicuramente riferimenti alla Gnawa magrebina, sicuramente degli ottoni balcanici, il folk sefardita, lei è figlia di un'ebrea, dunque ha sicuramente a cuore, come dire, la cultura della musica sefardita, del klezmer, insieme all'elettronica, che nei Wafaa Clan è spesso e volentieri un dubstep o una drum and bass. Questa, insomma, la Radio Babele dei Wafaa Clan, che fanno quello che dovrebbero fare la maggior parte degli artisti, almeno dei grandi artisti, cioè quello di evidenziare le somiglianze tra diverse culture piuttosto che magari stare lì a sottolinearne i difetti o le differenze. Loro ce la stanno facendo, e quindi grande tributo ai Wafaa Clan. Proseguiamo rimanendo a Parigi, quando sono le 9:40, e lo facciamo sempre con sonorità che guardano un po' al mondo, anche essendo in Parigi. A Parigi ci sono un duo che arriva sempre dal Maghreb, lui si chiama, uno dei due si chiama Mehdi Haddab, arriva dall'Algeria se non mi sbaglio, l'altro invece è Smadi Jai e arriva dalla Tunisia, dunque tutti e due dal Maghreb. Hanno fondato questo Duhud, che proprio nel nome cioè significa due hood, e loro suonano proprio questo strumento di tradizione medio orientale e maghrebina insieme con molta molta elettronica. Hanno pubblicato Ping Kong nel 2009 per la World Village, il loro ultimo progetto, e un progetto veramente interessante, l'abbiamo già passato sinceramente qui la cicogna, riascoltiamolo, e l'ascoltiamo in una delle sue canzoni più interessanti, che è quella in cui interviene la voce della grande cantante mauritana, ossia Maluma. La canzone che ci ascoltiamo si chiama Sable Émouvant. I'm Sablé et Mouvant, se la pronuncia è questa, francese, della grande cantante Maluma, sotto l'elettronica, sempre molto presente, spinta a volte fin troppo del doo-wop, comunque molto insomma adito, e molto un grazie a questo duo che ha veramente rivoluzionato il pensiero di far suonare questo strumento medio orientale. Ancora rimaniamo in Francia, ma sempre dal sapore estero, rimaniamo sempre a Parigi, dove risiede una capoverdiana di origini, o capoverdina, alcuni dicono capoverdiana, alcuna capoverdina, non so quale sia la pronuncia esatta. Comunque lei ha una etnicità abbastanza singolare che si rispecchia e sentirete nella sua musica, ossia nasce a Cuba, poi passa l'adolescenza fra l'Angola e la Germania fino a risiedere a Parigi, però la sua terra natia, quella delle radici dei suoi, è Capoverde, e per questa ragione la musica che ha nelle sue vene è proprio quella di Capoverde, del suo genere più rappresentativo, ovvero la morna. Naturalmente ci sono altri generi, la coladeira, però Mayra Andrade, questo è il suo nome, esce nel 2006, pochi anni fa, giovanissima, con un album d'esordio davvero davvero sorprendente, perché insomma ha la saudagi, ha la sensibilità, l'eleganza della regina piedi scalzi della morna, ossia Cesarea Evora, però riesce ad andare oltre, riesce a slegarsi dal genere capoverdino, questo proprio grazie alle sue radici e al suo amore per la musica brasiliana, anche per il samba. Nello stesso progetto che si chiama Storia Storia, di cui andiamo ad ascoltare un pezzo questa sera, ci sono dei musicisti, insomma, che provengono dall'Africa e dal Brasile, naturalmente. Leggiamo Kim Alves, un bassista, Kim Alves è l'unico capoverdino o capoverdiano che dir si voglia presente, multistrumentista. Poi abbiamo un bassista camerunense che si chiama Etienne Bappe, abbiamo naturalmente il Brasile, di cui Mayra è molto innamorata, con Zé Luiz Nascimento o Nascimento alle percussioni, e poi molti altri, insomma, guest star, a cominciare da suonatori di cora, a cominciare da un cantante israeliano con cui ha fatto una canzone molto molto bella che si chiama Deidan Reichel o Reichel Project. Storia Storia, dunque, l'ultimo suo album, non è la sua ultima pubblicazione, perché ha da poco pubblicato un album in acustico che si chiama Studio 105 ed è una reinterpretazione delle sue canzoni migliori, questo registrato a Parigi, mentre stasera vi proponiamo una canzone da Storia Storia, sicuramente la sua canzone più francese, perché la chanson francese è anche una delle direzioni che ogni tanto prende Mayra, e che è in cui naturalmente c'è anche la fisarmonica, la sanfona, come direbbero nel nord-est del Brasile, Mon Carousel. Sans un seul mot, la tendresse s'en va. Et plus rien ne sonne. Amour, mon sac se vide. sais, l'amour fait tourner ma vie et m'entraîne dans la folie de l'espoir. Chant d'amour, fleuve d'émotions qui emporte mon cœur. Encore une fois, tendresse, fleur de ma vie, printemps d'ivresse, souffle dansant qui ouvre mes ailes dans le ciel de tes yeux. Instant de rêve, l'amour fait tourner ma vie. La chanson francese di Mayra Andrade alla Cicogna Nera quando sono le 10:53 minuti primi, e rimaniamo dunque un po' nella poesia e nell'eleganza compositiva. Ci trasferiamo in Polonia per un altro brano che si chiama Spiewam Zici, è il nome del progetto. La Spiewam è la poesia spiewama, la poesia cantata, che è questo particolare genere musicale che si è sviluppato soprattutto nell'Europa dell'Est, in Polonia naturalmente in primis, ma anche molto nei Balcani, e che consiste nella scrittura di un poema. Dunque il testo qui è molto importante ed è spesso una ballata, e la particolarità è che i performer della musica spiewama non sono spesso loro i compositori delle liriche, comunque è spesso accompagnata da una melodia delicata, molto, come dire, minimalista, scarna, e spesso è presente la chitarra russa o il piano. Andiamo ad ascoltarla con una tra le più innovatrici e riconosciute cantanti di questa poesia spiewama, che qui potremmo definirla in Europa occidentale un po' come la chanson francese di Jacques Brel, oppure lo stesso Leonard Cohen potrebbe un po' essere la comparazione di questa poesia, di questa poesia cantata dell'Est Europa. E lei invece si chiama Editha Geppert o Geppert, e insieme a un trio di origine klezmer dovrebbe essere, che si chiamano i Croche, che si in Yiddish, sì, klezmer perché il nome è proprio in Yiddish, dunque sono un trio Yiddish che significa Cracovia, che si formano nel 92 all'Accademia Musicale di Cracovia, dunque dovrebbero avere una formazione abbastanza tra il classico e il jazz, e producono naturalmente musica klezmer e sefardite. Qui danno l'accompagnamento, il background, alla grandissima voce di Editha Geppert, che andiamo ad ascoltarci con questa canzone del 2006. La pronuncia è un po' ardo, è Zrob Kos Zeta Soba. Magari lei lo dice meglio. Gdy masz dosyć gdy cię mli. wariuje wszystko wokół twojego świata. Gdy zbyt dużo starych bredni, nowych głupot, gdy nikogo nie obchodzi czyjaś strata. Idź nad wodę, idź nad wodę, idź i zamknij oczy i się utop. Zrób coś z sobą, zrób coś z sobą, gdy masz dosyć cierpkich dni. Zrób coś z sobą, zrób coś z sobą, gdy masz dosyć bycie mdli. Jeśli życie staje w gardle z każdym łykiem, a gdy trzeba, to brakuje właśnie fartu. Kiedy świt cię zrywa z łóżka bladym krzykiem, weź cokolwiek, weź cokolwiek, cokolwiek szkodliwego i się zatruj. Zrób coś z sobą, zrób coś z sobą. Zrób coś z sobą, zrób coś z sobą. Gdy masz dosyć cierpkich dni, gdy cię mdli, gdy cię mdli. Sono le 10, cambiamo genere per questo ultimo pezzo di trasmissione della Cicogna Nera. Io è con grande piacere che ci è venuto a trovare qui a radio un'amica di passaggio qui a Roma, e questo perché stanno presentando un po' in giro il loro progetto di debutto, che a dire il vero ci può anche rientrare la poesia Spievama che abbiamo appena ascoltato, piuttosto che la chanson francese. Sicuramente sono delle direzioni che rientrano nel sentimento della Metralli, questo gruppo che nasce tra Modena e Bologna, se non mi sbaglio, e di cui Serena Fasulo questa sera è qui presente nei nostri studi di passaggio, così ci spiegherà un po', ci parlerà un po' di questo progetto e ascolteremo un po' di canzoni. Dunque, benvenuta Serena. Serena non si sente molto, quindi andiamo ad aprire il microfono. Forse eccolo si sente qui. Meglio. Eccola qua, quindi benvenuta negli studi di Onda Rossa. Grazie. Parleremo un po' di questo progetto. Io naturalmente, come le ho già detto in apertura, non è che ho preparato un'intervista, perché ho saputo ieri tramite un'amica che passavano di qua e dunque ho colto l'occasione per presentare questo bell'album, un album che se non mi sbaglio, anzi guarda sicuramente alle musiche popolari e lo fa in una maniera contemporanea, come è giusto che sia, anche affrontando in un sentimento, partendo da un sentimento che è quello del jazz o della musica contemporanea. Dunque io inizierei chiedendoti, Serena, le due domande di rito, le due domande classiche, che sono un po' di spiegazioni sia sul nome della band che sul nome del progetto discografico, del mondo che vi lascio. Ecco, mi piacerebbe, mi intrigherebbe sapere chi è colui che lascia questo mondo e soprattutto dove se ne va. Allora, innanzitutto il nome della band, la Metralli, nasce dalla fusione di più parole. È una parola che in sé non si trova su un vocabolario, non è possibile, non esiste, però evoca parole diverse, quindi crea un po' una curiosità, crea un po' un'attrazione in qualche modo, il desiderio di ascoltare qualcosa che dici: ma cosa vorrà dire questa parola? E fonde parole come metro, anelli, metalli, e quindi ognuno ci trova un po' quello che ci sente, quello che desidera trovare. Poi oltretutto, quando a un certo punto pensavamo a questo nome, abbiamo deciso di aggiungerci un articolo, la Metralli, perché la Metralli è come se fosse un cognome, un po' come se fosse il cognome di una donna, no? La signora Metralli, la signora Metralli che se ne va in giro cantando, raccontando delle storie, raccontando tantissimo le sue storie, con tanta ironia, contemporaneamente con malinconia, capace di ballare con un ritmo allegro e nello stesso tempo di raccontarti la fine di un amore, e cerca di diffondere questa la malinconia con l'allegria, con l'ironia soprattutto, più che con l'allegria, e allo stesso tempo cerchiamo come gruppo di fondere una, appunto, come dicevi giustamente prima, la ricerca della musica popolare, l'ascolto della musica popolare che ci accompagna sempre, con una ricerca anche di uno sguardo verso una sperimentazione, il tentativo, come credo tutti i gruppi facciano, di fare qualcosa di proprio, no? Quindi di andare oltre quello che si ascolta e di fare qualcosa di esprimere qualcosa di diverso. Il titolo, sì. No, dicevo di proprio e di nuovo nel vostro caso, perché non è sempre così. Ovviamente molti gruppi sono solamente la riproposizione di musiche già sentite più volte nel corso degli anni, mentre nelle vostre sonorità, che a breve sentiremo, comunque c'è un tentativo di cambiare direzione, di fare una mezcla nuova, comunque di avere un'evoluzione naturale, che è quello che è giusto che sia per la musica. Esattamente naturale, nel senso che c'è anche una costante ricerca di una semplicità. Nel senso di una naturalezza, di cercare di non essere per quanto possibile forzati, di non cercare la sperimentazione a tutti i costi, ma di semplicemente inseguire, un po' seguire più che altro una tendenza quanto più possibile naturale e anche semplice, perché nella semplicità poi cerchiamo di anche esprimere un messaggio che riguarda tanti argomenti, tanti aspetti che si possono sentire nei testi, ma anche nelle musiche, anche il tentativo di fondere, appunto, musiche che provengono dai Balcani, musiche che provengono dalla Spagna, dall'Europa in generale, quello che ascoltiamo e che ci piace mettere nella musica che suoniamo. Questo è un aspetto molto interessante, infatti, cercare di mettere all'interno della musica, come hai detto, con naturalità, quello che ascoltiamo anche al di fuori, naturalmente, dell'Italia, e anche, come ascolteremo tra poco, a dare uno sguardo all'intero Mediterraneo. E dunque abbiamo scoperto l'arcano, diciamo così, della signora Metralli, e sinceramente un bellissimo cognome da portare in giro e da portare piena di storie, che magari partiamo allora a sentire qualcosa di questo disco, e partiamo proprio con la canzone di apertura, una farruca, la della, farruca della disobbedienza. Ecco, se vogliamo dire giusto due parole a proposito di questa canzone, o anzi facciamo così, prima l'ascoltiamo okay. Le sensazioni, le sonorità che ci danno, e poi magari ne discutiamo un po'. Solo cos'è una sottrazione, o al massimo la farruca della disobbedienza. Leggevo adesso su internet, perché la farruca è un termine che mi sfuggiva un po', e infatti Serena, che qui è presente nei nostri studi, ci diceva che è un po' una danza, un palo, mi dicevi, del flamenco. È una forma musicale del flamenco. Io in realtà l'ho scoperto per caso, perché una mia amica ama il flamenco, ascolta tantissimo flamenco, e quindi quando ho visto la farruca della disobbedienza mi ha detto: ma questo è flamenco, l'ho detto. Quindi, questo è flamenco, esattamente. Infatti leggiamo su Wikipedia: flamenco probabilmente di origine galiziana, forma di origine galiziana. Intanto suonano, tra poco apriremo, regione del nord-ovest della Spagna. È una tipica forma leggera di cantecico, leggiamo da Wikipedia, ed è una cosa curiosa quella che ci dice che è tradizionalmente ballata solo da uomini. Ecco, questo è una bella cosa, un'orchestra quasi di sole donne che fa ballare gli uomini, esatto. Intanto mi scuso un momento e sì, io intanto ecco, Serena intanto ci dice qualcosa. Racconta un po' la farruca. Sì, ci racconta qualcosa della farruca, perché proprio la Metralli lì, la signora Metralli, ha parlato e ha detto: io vi lascio. Che cosa? Ci di lascia. Questo mondo. Che cosa ci lascia di questo mondo? Sì, il titolo sembrerebbe un titolo negativo, nel senso del mondo che vi lascio, basta, non ne posso più, ve lo lascio. Questo mondo in realtà l'intento è tutt'altro. L'intento è quello di dire: della parte di mondo che vi lascio, del mondo che vi lascio, mi tengo quello che più mi piace, mi tengo le carezze, mi tengo i vostri baci, mi tengo la sincerità delle parole vere. E la canzone che dà il titolo all'album, che si chiama appunto Del mondo che vi lascio, e introduce un po' questo atteggiamento della Metralli, l'atteggiamento della signora Metralli, che si tiene un po' del mondo, quella parte di amicizia, di sincerità che le piace, lasciando un po' tutto il resto. E, dicevamo, sì, appunto, è un ballo tradizionalmente ballato soltanto dagli uomini, e appunto, ancora una volta, la signora Metralli, una donna, un gruppo prevalentemente femminile, però in ogni caso ha dei componenti maschili, che fa ballare prevalentemente gli uomini, si diverte anche così. Ecco, io intanto avevo lasciato Serena qui alla conduzione da sola di Onda Rossa, perché hanno suonato due volte al campanello, e quindi eccole qui, sono arrivate, la facevo parlare poverina da sola a ruota, e le dicevo: tu continua a parlare della signora Metralli che io intanto vado ad aprire la porta. Ma queste sono i tempi e le situazioni genuine qui di Onda Rossa, e questo non ci può far altro che piacere. Intanto salutiamo le nostre ospiti, anzi è arrivata anche una inquilina della radio, di Radio Onda Rossa, e noi continuiamo a parlare di questo progetto, del progetto della Metralli, che nasce a Modena, non a Bologna come avevo detto erroneamente prima, e che vede la voce di Mike Clarelli, come scritto Make, di pronuncia tedesca mi avevi detto, se non sbaglio. Sì, è un nome tedesco. Mike è nata in Germania, quindi porta questo nome tedesco, si scrive Make e si legge Mike Clarelli, cantante, autrice, direttrice musicale del coro di donne migranti Le Chemin de Femmes. Sì. Meno male che mi aiuti con la pronuncia francese. E poi abbiamo Matteo Colombini, leggo sempre dal web, compositore, chitarrista di formazione classica e di jazz, e poi naturalmente la sezione ritmica, e non solo, Marcella Menozzi alla chitarra, la qui presente Serena, che ringraziamo per essere venuta nei nostri studi, al contrabbasso. E già questo, il suono del contrabbasso al posto del basso elettrico, dà naturalmente una svolta un po' folk e come si può dire un po' elegante a questo progetto della Metralli, così mi viene da dire o da pensare. Inoltre non so se si possono chiamare delle guest star o degli inserimenti, quella di sì, hanno collaborato con noi a registrare il disco Davide Fasulo, e leggo l'altro che mi eccolo qui, Jonathan Latang, batterista in inglese, che suona nella Farruca della Disobbedienza e in altre due canzoni, e che compongono dunque questo viaggio musicale della Metralli, orientato alle sonorità del Mediterraneo, naturalmente molta nuova Italia, una nuova direzione italiana, e non è da tutti, e atmosfere, sensazioni e sapori che guardano ad est, come abbiamo ascoltato ora nella Farruca, che guardano ad ovest, scusate, che guardano ad est in altre due canzoni, Il cuore quantico, Balkan Graffiti, o in ancora altre atmosfere mediterranee di un'altra canzone che potremmo andare ad ascoltarci. Magari Serena, dici cosa ci ascoltiamo io ora? Proverei ad ascoltare il valzer per Sophie. Questo era il valzer per Sophie, molto elegante, minimalista, e che Serena, qui la contrabbassista della Metralli, ci ha proposto, che noi abbiamo il piacere di avere questa sera di passaggio a Roma. Ci sta un po' presentando questo progetto di esordio, questo progetto di debutto, insomma, della Metralli, e che, come vi abbiamo detto, è una direzione, un sentimento delle nuove musiche folk, delle nuove musiche popolari che guardano più generalmente all'intero Europa. Ecco, chiederei a Serena se ci può dare qualche dritta in più sulla genesi di questo gruppo, anche magari come tu sei entrata poi a far parte di questo combo e come ti trovi, come ti senti, quali sono le sensazioni di questo bel disco di debutto. Bene, sì, il gruppo è nato appunto a Modena dall'incontro tra Maike, che è l'autrice e compositrice dei testi, e Matteo Colombini, che è anche lui compositore dei testi, dei brani. E poi nel tempo noi ci siamo incontrati a luglio dell'anno scorso, quindi a luglio, quasi un anno fa ormai, e quasi per caso, nel senso che un'amica in comune che allora seguiva il gruppo e mi disse: siamo senza bassista, dobbiamo andare in Val d'Aosta la settimana prossima, vuoi venire? Sì. Quindi da lì è cominciata la nostra avventura, la nostra collaborazione. Questi sono gli incontri migliori. Assolutamente, solo che sì, inizialmente poi parte dei brani erano suonati con il basso elettrico, nel tempo abbiamo fatto questa scelta di mettere soltanto il contrabbasso. Da ottobre è entrata a far parte della Metralli anche Marcella Menozzi, che suona la chitarra semiacustica e la chitarra elettrica, e insieme adesso partecipiamo a questo progetto che è fatto di noi quattro. Quindi adesso è un progetto relativamente breve, nel senso che il disco è stato preparato e registrato in un tempo brevissimo, perché proprio avevamo il desiderio di materializzare, di fissare appunto un momento del gruppo, un momento in cui eravamo noi quattro, desideravamo dirci: ok, allora questo è quello che intendiamo fare, quello che è la Metralli adesso. A questo punto la Metralli fa queste cose, fa questa musica, la fa in questo modo. Abbiamo voluto fissarlo in questo disco d'esordio, che è autoprodotto, coprodotto coprodotto da Amigdala, che è un'associazione culturale di Modena che si occupa di produzioni culturali che vanno dall'arte al teatro, con la quale tra l'altro abbiamo anche partecipato ad un festival che si chiamava Periferico, nel quale abbiamo partecipato ad uno spettacolo realizzato da Maike Clarelli e da Gabriele Della Barba. È uno spettacolo teatrale musicale nel quale cercavamo di far interagire un po' la musica con la recitazione, senza fare sì che la musica fosse semplicemente un accompagnamento, ma gli attori in qualche modo cantavano, partecipavano alla musica e noi partecipavamo in qualche modo all'azione nel teatro. Quindi anche musica per il teatro, questa della Metralli, se vogliamo. In quell'occasione sì. Ecco, in quanto tempo è stato registrato questo disco? Dunque, tu mi parlavi di tempi brevissimi, ma perché ci sono stati, insomma, le canzoni già c'erano, o tempi brevissimi nel senso che c'è una forte dose di, come dire, di improvvisazione scritta o di... Entrambe le cose, nel senso che alcuni brani come La Farruca della Disobbedienza, come Balkan Graffiti c'erano, e sono come anche il Valzer per Sofì. Ecco, ad esempio Valzer per Sofì, che abbiamo ascoltato prima, ci ho messo un po' di tempo a trovarla perché in realtà non c'era sul libretto, perché è l'ultimo brano, il brano strumentale, e che è un po' come una specie di ghost song, no? Questo mi verrebbe da dire, però sì, se vogliamo è così. Infatti non la trovavo, è un po' di difficoltà a trovarla. Comunque questa è un po' una come dire, una prova di estemporaneità per la Metralli, questa della del valzer per Sofì. Sì, il valzer in qualche modo esisteva già, aveva una forma leggermente diversa, nel senso che abbiamo aggiunto poi quell'intermezzo, quella trasformazione che avviene a un certo punto, perché inizialmente sembra proprio un valzer un po' alla francese, con queste sonorità molto rilassanti, no? Sembra qualcosa da ascoltare magari non so, sul balcone quando si sta a casa con calma. A un certo punto cambia, e quello è stato quella è stata la trasformazione che abbiamo introdotto nella registrazione del disco, proprio al momento della registrazione del disco. E così è avvenuto per altri brani, per altre canzoni, cioè esistevano già, erano già presenti alcuni, altri come Cuore Quantico invece sono stati composti proprio poco prima della registrazione dell'album. Cuore Quantico, Sull'ultima vertebra, anche sono canzoni, insomma, sì, che hanno avuto una gestazione molto breve, ecco, da come mi stai dicendo. Ecco, leggo anche, sto leggendo in questo, sto aprendo un po' di pagine web che vi riguardano, e in questa che si chiama IndieEye, come occhio.it, c'è questa recensione di Giulia Bertuzzi che dice, quindi che già la conosci, però è interessante questa, proprio questa frase qui, che dice: un disco da grammofono, di quelli che suonano pigri nelle stanze vuote. Pigri nelle stanze vuote, dietro le tende mosse dal vento, e si fanno ascoltare quasi per caso dalle strade. Beh, questa è una citazione molto poetica, o comunque molto pregna, molto sentita. Ecco, sei d'accordo con Giulia Bertuzzi? Assolutamente, anche se io poi il disco l'ho ascoltato prevalentemente in macchina, però assolutamente sì, e mi è piaciuta molto, per quello facevo di sì con la testa prima, perché avevo apprezzato tantissimo, ci era piaciuta tantissimo questa recensione. Questa è forse la recensione più come si dice, alta tra virgolette, che si trova sul web, o almeno che sto trovando io in questi minuti che sto cercando qualcosa su di voi. Comunque, dunque, a questo punto ascoltiamo una terza canzone dal vostro album. Che dici, cosa ci andiamo ad ascoltare, Serena? Io sparerei un cuore quantico, che così ecco. Dopo il valzer per Sophie. Allora, spariamoci questo cuore quantico che insieme a Balkan Graffiti intanto suonano ancora. Mi dispiace distrarmi un attimo anche a voi ascoltatori, ma qui è, come sapete, una radio fai da te, dunque apriamo tutto noi. E, cuore quantico, che è una canzone che sa, è tra l'altro l'unica canzone insieme a Sull'ultima vertebra che ho ascoltato ieri e che mi è piaciuto molto, che ha un sapore balcanico, mi avevi già anticipato prima, insieme a Balkan Graffiti forse sono le due canzoni dell'album che guardano ad est, le uniche due canzoni. Sì, sono quelle che più di tutte guardano a est sicuramente. Bene, andiamolo ad ascoltare, Cuore Quantico, dovrebbe essere 1, 2, 3, la 5, eccola qua. La tenevi per te. c'era più musica in me, la tenevi per te. Questa è una strofa rappresentativa di questo cuore quantito, dunque ancora molta poesia, molto romanticismo elegante in questa formazione della Metralli. Ricordo che Serena era la contrabbassista del gruppo, contrabbassista ma di estrazione invece da basso elettrico, da come abbiamo detto prima, se non mi sbaglio. Esattamente, sì. Esattamente, ti hanno convinto a optare per il contrabbasso. Il contrabbasso, io sì. Avevo cominciato a convertirmi al contrabbasso dopo aver suonato punk per tanto tempo basso elettrico, quindi sì. Ecco, vedi, crescendo si passa dalla ribellione, dalla rivoluzione giovanile del punk a delle sonorità un po' più... A delle rivoluzioni un po' più profonde e sì, piene di sentimento. Dunque, ringrazio Serena, naturalmente non ci sono le sonorità di Noctibus Panis, come state ascoltando, sono le 10:30 e nelle notti di Panna non si è visto neanche questo giovedì, dunque ci abbiamo un po' sforato, stiamo un po' sforando per presentare questa La Metralli. Gli altri componenti del gruppo stanno venendo a Roma, sono di passaggio per presentare il loro debutto, io spero che li ritroveremo nella capitale per alcune date. Comunque volevo chiedervi questo, magari agli ascoltatori, voi che avete sentito Ascoltatori di Onda Rossa, se vi piace questa musica, dove potranno vedervi dal vivo nelle prossime giorni, nelle prossime date? La prossima data che è già fissata è il 7 luglio a Mantova e dopodiché siamo aperti a tutte le possibilità, nel senso che ci stiamo muovendo per cercare delle altre date durante il periodo estivo. In questo momento non abbiamo qualcuno che ci segua da questo punto di vista, non abbiamo un'agenzia di booking e quindi effettivamente è quello che stiamo cercando. Perché state cercando delle date o state cercando un'agenzia di booking? Entrambe le cose naturalmente, quindi sì, saremmo anche in questi giorni saremmo stati felici di poter suonare nella capitale, di poter suonare a Roma, ma è stato tutto così rapido che non abbiamo neanche avuto il tempo di organizzarci in questo un'ascesa senso, rapida, ecco, dunque sì. Questa della Metralli, infatti una bella sonorità che sicuramente avremo il piacere di riascoltare a breve sia in Italia sia soprattutto magari nella capitale. E ovviamente la agenzia di booking è una cosa, non dico indispensabile, ma anzi io opterei per non averla, però ti risolve magari molte cose alcune volte. Grazie Serena. Grazie a voi. Grazie di essere stata qui negli studi di Radio Onda Rossa. Abbiamo, ripeto, presentato questo debutto, una delle direzioni più genuine e sincere, secondo me, della musica folk in Italia in questo 2010-2011, insomma in questo periodo. Una musica che tenta di slegarsi dai concetti tipici della tradizione e sperimentare un po' i sentimenti, soprattutto non proprio nelle forme canoniche, ma proprio nelle sensazioni, nel sentire. Comunque, un grande grazie a Serena e alla Metralli per questo disco. Grazie. La Cicogna Nera finisce qui. Anzi, direi a Serena che, visto che non ci sono le sonorità delle Notti di Pan, e dall'altra parte del vetro ci sono già i ragazzi che tra poco entreranno in console verso le 11 meno qualcosa, magari abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un'altra canzone da questo progetto. Che ne dici? Cosa possiamo andarci ad ascoltare in chiusura della Cicogna? Ma secondo me in chiusura io ci metterei D'Arteria. Sta già partendo, anzi è bloccato in sottofondo, ma lo stiamo facendo partire. È un po' una roba da DJ. La Cicogna Nera vi dà appuntamento allora a giovedì prossimo. Grazie a tutti e rimanete sulle frequenze di Onda Rossa. Ciao agli occhi. Ho detto già del mio impedimento tecnico e questa ne è la prova, perché è partito il valzer, che tra l'altro abbiamo già ascoltato, dunque un attimino di pazienza. La numero 10 ci dovremmo essere. Allora, di nuovo, D'Arteria, ci vediamo giovedì prossimo. Mm-hmm. silenzio.